Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Eccoci qua, buona domenica da Stefano Gallarini, comincia Il riposo del guerriero. Oggi il titolo della puntata non lo so dire, quindi non so, messo, quindi lo dirò tra poco. No, perché c'è una questione di pronuncia, tutto qua, quindi vorrei capire come pronunciare questa parola, quindi tra poco ve la racconterò. Prima le notizie di servizio, come al solito, ovvero i numeri per i vostri messaggi, 349-238-6666. Poi c'è il numero verde, perché alle 11.30 giocheremo con il mistero in 24 minuti. Come sempre, la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it risolvendo il nostro mistero, che può avere come risposta una delle notizie della settimana oppure qualcosa di molto conosciuto, un personaggio, un oggetto. E per arrivare alla soluzione dovrete ascoltare degli indizi musicali. Per esempio, il primo è questo. Che cosa vi viene in mente ascoltando questo indizio, sapendo che questo indizio può essere contenuto nel testo della canzone, nel significato, nel nome del cantante? E chi lo sa? Per prenotarvi 800 24 00 24. E veniamo alla puntata di oggi. C'è Gatta Lavanda, che è il, credo, lo pseudonimo, non credo che si chiami così, comunque sia, di un'ascoltatrice su Facebook. Abbiamo anche la nostra pagina Facebook, quindi cercatela, Il riposo del guerriero, che scrive riguardo alla puntata di questa domenica: l'ascolterò volentieri come tutte le domeniche, ma oggi in particolare perché dopo 3 anni di disoccupazione e impossibilità di ricollocazione come manager, tra pochi mesi aprirò il mio negozio di baratto e vintage. Complimenti per la sua attenzione, vabbè, a tutto quello che accade nella società. Già, perché oggi parliamo di ritorno al vintage. Come che si può dire ancora? L'ho già detto tutto, vintage, forse qualche accento da qualche altra parte, voi come lo pronunciate non importa. L'importante è capire che c'è una sorta di ritorno al passato, di delle cose che andavano di moda 20, 30, 40 anni fa e che stanno tornando assolutamente di moda, ma non soltanto per quanto riguarda la moda, appunto, quindi il vestito, i capi d'abbigliamento, ma anche per quanto riguarda il cinema, la televisione, addirittura la tecnologia. Per cui oggi vedremo di fare questo tuffo nel passato, un passato comunque vicino che è ancora tornato alla grande e che magari possiamo trovare nei nostri cassetti, nei nostri armadi, nelle cose che stavamo per buttare via e che invece dobbiamo tenere. Certo, caro Emerald, perché insomma la sonorità è quella anni 50, anni 60, non c'è niente da fare, anche se la traccia è assolutamente nuova. E cominciamo subito a parlare di vintage con Simone Velleca. Ciao Simone, buona giornata. Buona giornata e buona domenica. Allora, la pronuncia qual è? Vintage, immagino, sa un po' francese, o mi sbaglio? Esatto. Ok, quindi vintage all'inglese è sbagliato o si può dire lo stesso? Bene, anche vintage in inglese. Va bene. Dipende, insomma, dal contesto e da forse dalla lingua parlata. Ecco, l'importante è capirsi, cioè quello è, no? Alla fine, esatto, della fiera. Quindi parliamo di una moda che ritorna, appunto, ritorna al passato, davvero. Allora, tu sei direttore artistico e tecnico dell'11ª edizione di Vintage, la moda che vive due volte. Si svolgerà il 16, il 17 e il 18 marzo a Forlì. E, appunto, sono 11 anni che si parla di vintage, a quanto pare, visto la vostra fiera si occupa di questo. Ma come sta andando proprio negli ultimi anni? C'è veramente un ritorno? Perché se ne è sempre parlato, però a me pare che in questo momento ci sia davvero, e non soltanto per quanto riguarda la moda, ma per quanto riguarda anche altri ambiti della nostra vita. Sì, sono pienamente d'accordo con te. Il vintage è proprio un fenomeno che sta tornando di moda negli ultimi anni, sta avendo veramente un forte successo. anche perché penso che per capire meglio quello che siamo oggi bisogna anche spesso guardarsi indietro e cercare di comprendere quello che eravamo una volta. E la stessa cosa penso che sia anche per il discorso della moda e del design. Ecco, quindi vedremo un po' cosa potremo vedere in questa fiera e che cosa invece voi avete assolutamente escluso. Il riposo del guerriero. Sono con Simone Velleca al telefono, direttore artistico e tecnico dell'undicesima edizione del Vintage, la moda che vive due volte, si svolgerà a Forlì 17 e 18 marzo, c'è anche un sito che è feravintage.it. Allora Simone, dicevamo, le cose che ci sono, dopo adesso le vedremo, cosa non ci sarà? Nel senso, voi proporrete anche degli articoli che sono una rivisitazione vintage di oggetti di oggi o esclusivamente cose del passato? Allora, i nostri settori sono appunto quelli del vintage, che sono capi accessori dagli anni 20 agli anni 80. Poi c'è il settore del modernariato e del design, che sono i mobili appunto e complementi d'arredo appartenenti al secolo scorso. Un settore dedicato al collezionismo, come vinili, giocattoli, latte, stampe, bijou, eccetera, eccetera. E abbiamo anche il settore del fashion vintage remake, che sono capi e oggetti rivisitati con materiali di scarto e di recupero in chiave moderna. Ecco, quindi diciamo che ci sono anche le novità, tra virgolette, anche se poi il gusto è quello passato. Ecco, tu credi che il ritorno al passato sia anche dovuto a questo momento di crisi? Beh, oddio, proprio non direi. Anche perché ti spiego, vintage comunque non è sinonimo di usato e di seconda mano. Il termine vintage si usa per definire la moda d'epoca intesa come patrimonio storico e culturale rappresentato da importanti capi d'abbigliamento e oggetti di vanità. Appunto, il vintage si differenzia e contraddistingue dal generico usato e seconda mano, poiché la caratteristica principale non è tanto quella di essere stato utilizzato in un'epoca passata, ma diciamo per il valore che progressivamente... Ecco, quindi possiamo definire un lusso d'epoca in questo caso, no? Oddio, diciamo sì, l'eccellenza della moda del XX secolo. Quindi gli oggetti che vedremo esposti, per esempio in questa fiera, sono comunque oggetti di un certo valore anche economico. Dipende dal tipo d'oggetto, sai, si spazia comunque dal piccolo accessorio fino a vero e proprio ambito. Ecco, quindi è definito vintage soltanto ciò che ha un valore, non solo, cioè ha proprio un valore storico, perché c'è un design particolare, perché ha una storia particolare e non qualunque cosa appartenga al passato di 30, sì, diciamo 40 anni fa. Sono oggetti che testimoniano lo stile di un'epoca passata. Certo. E che quindi hanno un valore. È vero, appunto, sì? Che influenzano comunque anche gli stili di vita contemporanei e la moda d'oggi. Ecco, infatti, poi questo lo approfondiremo anche con un altro ospite. Intanto, grazie Simone Velleca, buona giornata. E insomma, poi vedremo cosa accadrà in quei giorni di marzo. Buona domenica, ciao. Buona domenica. Ciao, è vero che però insomma ci sono anche oggetti che forse di valore non ne hanno poi tanto, che però sono comunque affascinanti e che qualcuno ha tirato fuori dall'armadio. Per esempio un messaggio dice: ho riattivato il giradischi dopo quasi 20 anni e suona ancora splendidamente. Ecco, magari questo giradischi non ha un valore pazzesco, però rappresenta un modo di vivere, un gusto e anche un design tipico di 20 anni fa, e quindi il suo valore è lì. Io credo che ci sia anche così la voglia di non buttare via, questa è la mia opinione personale, poi voglio sapere cosa pensate voi, la voglia di tenere le cose che si avevano e alle quali si era affezionati e un po' riscoprirle, no? In un momento in cui forse abbiamo vissuto proprio nel consumismo più sfrenato, dove si compra ogni cosa e se qualcosa si rompe si va a cambiare al posto che aggiustare, si ha voglia invece di ritornare proprio anche all'aggiustare. Credo che anche questo sia vintage. Non so cosa pensi. Sensi, la nostra glottologa. Ciao Francesca, bentornata, buongiorno. Ciao, buongiorno, bentrovati. Ciao, allora tu cosa pensi del vintage, vintage o vintage? Intanto poi vedremo anche come si deve pronunciare, veramente. Sì, penso innanzitutto che la parola che sta all'origine di questo termine ha lasciato in italiano un termine che a tutti gli effetti potrebbe essere definito un doppione, l'italiano vendemmia. Infatti il significato di questa parola, che io pronuncerei all'inglese, vintage, è appunto vendemmia. È un termine che troviamo attestato appunto nel latino e poi nell'antico francese, più o meno nel XIV secolo, e da lì successivamente per modificazioni fino a trovarlo così come oggi nell'inglese. È probabile che la pronuncia vintage sia una ripresa operata dal francese, quindi un adattamento nella pronuncia francese del termine inglese, perché la trafila dal punto di vista della storia e dell'evoluzione del termine è quella che ho detto. Per quanto riguarda il significato, appunto, il primo significato è quello di vendemmia. Nel momento in cui l'idea è quella della vendemmia di un anno e quindi dell'annata, si passa all'annata rinomata per qualità, per eccellenza, e da lì poi, a distanza di tanti secoli, all'epoca di riferimento, sempre per qualità, per gusto, relativa ad un certo prodotto, ad una certa categoria merceologica, ad un certo genere. In questo modo siamo arrivati alla diffusione, che è massiccia nell'inglese a partire dagli anni 30, in italiano soltanto più recente. Infatti la prima attestazione, almeno per i dizionari, la prima attestazione in italiano sarebbe solo del 2000, in un articolo del Manifesto. Ecco, quindi devo dire che è una parola anche recente, e proprio di qua, da qui partiamo, perché parleremo di parole che sono tornate di moda e che fanno parte del passato. Una parentesi, arriva un messaggio che dice: qui in Friuli fanno anche un vino, si chiama Vintage, rosso intenso di vitigno antico, quindi c'è un senso. Ecco, di... Esattamente, in ladino troviamo infatti la stessa parola anche in riferimento ai mesi della vendemmia, o anche in riferimento proprio all'operazione di prelevare i grappoli dalla vigna, perché in ladino il termine in realtà è un composto che significa da vino, o vinum all'accusativo, e demere, che significa tagliare, portare via i rami, quindi il sostantivo si riferisce proprio all'azione della raccolta del vino, ecco perché poi vendemmia, e da cui vendemmiatore, insomma tutti quanti i termini relativi proprio alla pratica. Ecco, è tutto molto chiaro, ma a questo punto vediamo quali sono le parole del passato che sono tornate di moda. Tu ne hai così trovata qualcuna, e qualcuna fa anche sorridere. Innanzitutto è sempre molto difficile stabilire se una cosa è definitivamente uscita dall'uso e poi rientrata, come può essere per un capo di abbigliamento, oppure se si tratta semplicemente di una perdita di presa sui parlanti, che poi a seguito dell'uso da parte magari di un personaggio celebre, o comunque di qualcuno che appare spesso nei mezzi di comunicazione di massa, ritorna in auge. Per cui è sempre piuttosto difficile decretare che qualcosa che si riteneva utilizzato, caduto dall'uso, ritorni ad essere invece vitale. Guarda, perché... io in una radio di molti anni fa, più di 10 anni fa, cominciai a utilizzare costantemente la parola farlocco e non la usava nessuno. Ecco, da lì in poi la parola farlocco ha cominciato a girare soprattutto nelle radio, e questo mi fa pensare, in effetti, sai, magari una parola non è uscita completamente dall'uso, però poi qualcuno la fa diventare di nuovo famosa, la riporta alla luce e poi viene usata. E tra sì. No, no, appunto dico, si tratta soltanto in apparenza di parole morte, perché se tu l'hai utilizzata in quella circostanza è perché faceva parte del tuo bagaglio e probabilmente l'hai continuata ad utilizzare nell'arco di tutta la tua vita, magari in una cerchia ristretta, quella dei tuoi amici, però il fatto appunto di possederla ha fatto sì che in una certa circostanza fosse pronta al riuso. L'amplificazione dei mezzi di comunicazione, l'amplificazione della radio, poi la rimessa in circolo per una comunità di parlanti più ampia e così via. Quindi veramente sono quelle parole che stanno nel cassetto, ma che non sono mai totalmente cadute in disuso. Certo. Perché non sono obsolete in senso stretto. Tra l'altro abbiamo avuto una piccola polemica quando avevamo parlato del dizionario Zingarelli, perché era uscita la nuova edizione 2012 e ne avevamo parlato per quel motivo, ma era così uno spunto per parlare di parole, scusate il bisticcio. Certo. E allora qualche ascoltatore ha scritto, dice: però perché non citate gli altri dizionari? Noi lo faremo in questo momento, perché adesso citiamo il devoto Olio Devadoli del 2011. È vero, citiamo il Devadoli esattamente per la ragione opposta rispetto a quella per cui citavamo lo Zingarelli, perché in quel caso ci occupavamo di neologismi, in sì. questo caso di parole vintage. In particolar modo ho scovato in rete una recensione di un commentatore all'edizione del Devoto 2011, intitolata proprio l'operazione vintage del dizionario. Perché? Perché sono rientrati proprio come termini recuperati cazzillo, bigotta e ciaspola. E cazzillo, appunto, per intendere quel è vero, adesso mi fa venire in mente, lo si usava, dammi quel cazzillo lì, che era un oggetto, non aveva, era indefinito, a posto di dire quella cosa lì. Giusto. Beh, è una forma molto più espressiva che rimane molto più impressa nella memoria, proprio collegata comunque a cosa, no? Per cui non mi viene il termine di una cosa, non necessariamente di una cosa concreta, perché si può riferire anche a un concetto, a qualcosa di varia natura. Non la voglio nominare perché magari non mi ricordo il nome, oppure non lo conosco, oppure semplicemente perché mi fa gioco utilizzo la forma cazzillo. Ecco, allora cazzillo lo ritroviamo nel Devoto Oli, che si tratti in partenza di un regionalismo, proprio perché l'uso, anche legato alla facilità con cui si imprime nella mente dei parlanti, ne ha facilitato la circolazione anche al di fuori del contesto di origine. Le altre due parole che invece vengono citate in questa recensione come il frutto di questa operazione vintage di Devoto Oli sono ciaspola e bigotta, due termini che rispetto a cazzillo hanno invece una provenienza completamente differente, perché sono legati a lessici specifici. In particolar modo ciaspola è legato al mondo dello sci, sta ad indicare la racchetta da neve, è un termine molto produttivo, tanto che si parla addirittura di ciaspolate per indicare delle gite, comunque delle escursioni fatte utilizzando come... Anche la racchetta da neve, adesso vuol dire, sì. Chi non va in montagna non ha idea, si chiama così perché alla forma di una racchetta da tennis, tra virgolette, si mette sotto i piedi, cioè, questo è il concetto. Sì, e quindi appunto si tratta di un termine che è fuoriuscito da quello che in partenza era un dizionario specialistico. Allo stesso modo bigotta, legato all'ambito completamente opposto a quello delle barche a vela, una sorta di carrucola che serve ad agevolare le manovre. Quindi come dimostra anche la provenienza completamente diversa di questi tre termini, è dura definire in assoluto un termine vintage. Diciamo che quando un qualcosa si conosceva se ne è persa la memoria, però la memoria non è che è andata del tutto perduta, si è affievolita, e poi per una qualche ragione invece il termine è ritornato in circolazione, adesso fa buon gioco chiamarlo termine vintage. Ecco, fra queste sicuramente il termine vintage, secondo me, più giusto che potremmo usare è cazzino. Perché è veramente un ritorno, mi fa tornare indietro di 30 anni, davvero. Grazie. Beh, Francesca, ci sentiamo la settimana prossima. Grazie a voi, buona domenica. Il riposo del guerriero. Che ridere, perché siete veramente molto attivi oggi anche su Facebook e mi state mandando in confusione, perché chi dice arriva da la parola vintage arriva dall'inglese, no, è un francesismo, arriva dal francese, quindi ognuno dice la sua. Però Francesca Dragotto ci ha spiegato, l'unica cosa di cui siamo certi è la vendemmia, quella sì, quindi siamo anche un po' ubriachi almeno nel pensiero oggi. Allora, vintage o vintage che sia, Gloria Spaini, buona domenica. Gloria. Buongiorno a lei. Eccoci qua, esperta di moda vintage, anche presidente dell'ente Fiera, organizzatrice dell'evento Next Vintage Belgioioso. Allora, Gloria, parliamo di questi capi. Prima abbiamo detto sono tutti capi, da un certo punto di vista, preziosi, cioè che avevano avuto un senso quando sono stati creati. Ma vintage che cos'è? Tutta la moda di quegli anni, quindi indipendentemente che sia nata da stilisti di fama, oppure no, il vintage è solo quello, cioè quello no, che... Non è una selezione, è proprio tutta la moda, noi la consideriamo dal 700 fino agli anni 80, anche che è più o meno il periodo di riferimento anche delle nostre manifestazioni. Ecco, quindi anche un capo comprato in un grande centro commerciale, non c'erano, voglio dire, però no, in un grande magazzino, cioè vale come vintage, se certo, nato in quegli anni. Esattamente, di una sarta sconosciuta, ma che aveva intravisto un dettaglio, un particolare, Cioè, è proprio questo il segreto del vintage, di scovare non solo le cose, diciamo, che comunque rimangono icone di stile nel tempo, quindi ci sono alcuni capi di riferimento storici, ma è proprio anche scoprire tra cose meno importanti qualcosa di particolare, di nuovo, che comunque riusciamo ad indossarlo, a portarlo con una disinvoltura e a creare un nostro stile. Questo è il segreto del vintage, è la moda che non passa mai di moda. E tra le altre cose, il vintage invecchiando migliora, diventa prezioso. Come un vino, visto che partiamo da lì, esatto. Oggi abbiamo scoperto che si parte da lì. Allora, Gloria, rifaccio a te la domanda che avevo fatto al nostro primo ospite. Secondo te questo ritorno al recupero a questo punto è più forte proprio perché c'è la crisi e quindi si ha meno voglia di buttare, o è sempre stato così? Per esperienza diciamo che c'è stata una crescita, abbiamo iniziato l'evento con pochi selezionati, ma persone di un certo livello culturale, devo ammettere, che avevano capito che appunto i capi vintage avevano qualcosa in più rispetto ai nuovi, quindi tessuti particolari, rifiniture, bottoni, cioè tutto molto più curato. E poi pian piano siamo riusciti, dicevo, ad ampliarlo ai giovani, e questo è un segnale ottimo. Poi chiaramente la crisi sta facendo la sua parte, perché negli ultimi 2 anni devo dire che appunto ma è anche molto divertente, oltre che diciamo che si uniscono le due cose. Sicuramente il problema dell'inflazione, della crisi che stiamo attraversando, ha avvicinato ancora anche chi era scettico. Ecco, Gloria, allora vediamo un po' quali sono degli elementi così che tu hai trovato tipici della moda vintage e che ritroviamo oggi. Quindi dividiamo questa fase in due parti. Quella dei vestiti vintage, quindi quelli del passato, che ritroviamo oggi, nel senso che sono quelli che riindossiamo, cioè cosa va più di moda. Sì. E poi invece vorrei capire quali sono quegli elementi vintage che ritroviamo invece nei capi fatti oggi. Ecco, quindi dividiamo in queste due parti. Sì. Beh, allora i riferimenti, i capi culto, come li definiscono, del vintage sono sicuramente, non so, l'abito tubino di Givenchy. Lo stavo per dire io, perché Hepburn, ecco, non so, la borsa Kelly di Hermès, oppure i sandali Capri della Jacqueline Kennedy, la collana di perle, il trench di Humphrey Bogart, cioè sono tantissimi i capi che sicuramente questi sono un riferimento, un acquisto sicuro per tutti, perché il tubino è forever, nel senso che sia l'estate che l'inverno è un capo che utilizzi sempre comunque, e questo diciamo è una prima classifica delle cose. Mentre nella moda di oggi, ecco, si rivedono per esempio molti tessuti, i tagli, le fantasie, cioè io da quello che vedo durante le mostre, e rivedo poi nella collezione successiva, nelle collezioni moderne successive, rivedo molto i tessuti, le forme, le lunghezze, ecco, la differenza sicuramente sta in quello che ho detto prima, che c'è maggiore ricerca nei precedenti, e quindi appunto, non so, per esempio il bottone ricoperto da tessuto, mentre oggi magari non lo è più, ecco, ci sono proprio cose infinitesimali che solo uno sguardo critico e da professionista riesce a intravedere, però sono cose ancora molto belle, anche quelle rieditate, ecco, diciamo. Ecco, quindi insomma c'è una ricostruzione poi alla fine delle cose. E bisogna capire se anche i capi di oggi, che riprendono appunto gli elementi del passato, sono in qualche modo da considerarsi vintage o per niente. Io personalmente direi per niente, perché appunto il riferimento lo facciamo sempre in quel periodo che ho detto prima. Ecco, e c'è un periodo storico preciso, cioè avevi addirittura detto dal 700 oggi, sì, se non ho capito male all'inizio. Sì, noi dal 700, che è chiaramente una branca non di espositori particolari, cercata soprattutto dai collezionisti, e non sono capi che si indossano, perché sono talmente sottili quando si trovano e quindi immagino molto delicati. Ecco, certo. Molto delicati, ecco, con rifiniture e anche, non so, trine che ormai si sono anche un po' sgualcite col tempo, ecco. E quindi sono proprio è un settore dedicato al collezionista, però tutti gli altri capi appunto 50, 60, 70, 80 e anche 40 sono sicuramente portabilissimi, diciamo che ci sono annate ce n'è meno e chiaramente ce n'è di più, perché anche qui comunque i bauli sono stati svuotati, quindi il giro poi è sempre un po' lo stesso, no? diciamo che si trova sicuramente più roba recente che non capi degli anni 40-50, certo, che stanno scomparendo. Gloria, se ne hai uno, qual è il capo vintage alla quale sei più affezionata, che hai tu, che possiedi, che ti sei regalata? Il tubino sicuramente è uno dei capi preferiti, però ogni volta io spendo non riesco a resistere, nonostante sia qui e ci sono cose bellissime, coloratissime, cappotti, trench, ma anche semplicemente i foulard, ecco, per esempio un altro capo intramontabile foulard che accompagna, insomma, valorizza, ecco. Poi il segreto, ecco, magari di trovare qualcosa, un accessorio da mettere sul capo che tu hai, magari che ti ha stufato, comunque di rimescolare vecchio e nuovo insieme, anche questa è una nuova tendenza, quindi magari abbinare una giacca da un pantalone a una gonna o un abito che tu hai lì da anni che ti ha un po' annoiato, questo è un po' il segreto. Quindi, oppure una passamaneria, sostituire un bottone, mettere un fiore di quelli con le piume che anche qui si trovano, insomma, tantissimi suggerimenti. E poi la cosa carina, ecco, che comunque vedendo la mostra, vedendo questi capi, ti ricordi di, diciamo, di quello che aveva magari tua madre, cioè sicuramente, ecco, il capo tu lo trovi, è un po' il custode, diciamo, della memoria, secondo me, il vintage. Gloria, a parte il trench, l'impermeabile, diciamo così, i capi maschili però, come al solito, così sono diciamo, sì, è vero, sono un po' più dove sono? Perché le giacche, sai, le giacche, io ho paura, una giacca del passato che ha proprio un taglio che ormai oggi fa vecchio, o mi sbaglio? No, perché sono stati drammatizzati molto, se ben drammatizzati si possono utilizzare ancora oggi. Ecco, diciamo che le linee, ma questo vale anche per la donna, erano più diciamo più minute le persone, quindi si fa un po' fatica. Il capo vintage va sempre provato, ecco, questa è una regola, perché erano più tra virgolette rachitiche. E oggi siamo grassi, cioè questo è il senso. Siamo un po' super nutriti, mentre una volta era. E quindi questo è, se io per esempio porto una taglia 44, devo provare una taglia 46 come minimo per farmela andare, ecco, bene. Certo che sono a 44, il tubino sta sicuramente molto bene. Grazie Gloria Spaini, buona giornata. Grazie, potete andare sul sito per vedere questo evento, che è belgiogioso.it/vintage. Stanno arrivando moltissimi sms, vi prometto che li leggerò tutti tra pochissimo. Allora, avete avuto qualche idea per il lancio della ruota? Sappiamo che è difficile perché non sono viste come una tecnologia emozionante, anche se sono originali. Beh, la tecnologia è un richiamo scintillante. Ma a volte il pubblico può essere catturato da qualcosa che va al di là di un lampo, se si riesce a legarlo sentimentalmente al prodotto. Il mio primo lavoro l'ho fatto per una pellicceria insieme a un vecchio copywriter greco di nome Teddy. E Teddy diceva che la cosa più importante in pubblicità è la novità, che crea un desiderio. Non si può lanciare qualunque prodotto come se fosse una lozione. Per questo bisogna creare un legame più profondo col prodotto. La nostalgia. E da qui partiamo, nostalgia di quegli anni forse, che sta tornando anche in televisione. Questo era un brano tratto dalla serie Mad Men, che racconta la storia di un'agenzia pubblicitaria americana degli anni 60, e parliamo proprio di serie televisive. Lo facciamo con Mattia Nicoletti. Ciao Mattia, buongiorno. Ciao, buongiorno. Mattia, autore di un blog, si chiama Moob, la TV è una cosa serial, sul canale Lei Web, lì potete trovare il suo blog. Allora, cominciamo da queste serie, anni 50 e 60, partiamo da Mad Men per poi arrivare anche a Panam, sicuramente, per capire un po' come funziona in TV, e partendo dagli Stati Uniti, a quanto pare, questa operazione nostalgia. Beh, insomma, Mad Men è sicuramente il capostipite di questa tendenza, ed è nata nel 2007, però prima del crack della Lehman nel 2008, quindi diciamo che la tendenza successiva è quella che poi nasce dalla crisi, e spiegheranno perché, però di fatto Mad Men era un tentativo di parlare di un mondo diverso, perché si erano stufati gli spettatori di doctors, cops, lawyers, come dicono, cioè medici, poliziotti, avvocati, e quindi parlare del mondo dei pubblicitari in un periodo lontano dal nostro, diciamo alle origini della pubblicità, era qualcosa di molto più interessante. Ecco, tra l'altro in particolare per quello che sono gli Stati Uniti, perché la pubblicità lì è sicuramente iniziata prima e ha avuto un modo di svilupparsi anche diverso da quello europeo, in particolare diverso da quello italiano. Quindi per loro credo che abbia avuto una rilevanza maggiore rispetto all'impatto che può aver avuto con noi. Anche nella traduzione sicuramente la serie ha un po' perso. Ma voglio sapere com'è stata presa questa dagli ascoltatori americani e italiani questa serie. Allora, Mad Men fondamentalmente, al contrario di quello che possono pensare tutti, ha un pubblico veramente limitato, cioè ha iniziato con meno di 1 milione di spettatori e adesso arriva a circa 3. Bisogna tenere conto che però su una televisione via cavo, e quindi a pagamento e non su un network free, sì. Insomma, per cui in pratica l'audience non è elevatissima, ma il ritorno d'immagine, soprattutto perché ha riportato quei mondi, quegli abiti, come si diceva prima, i vizi, quindi l'alcol e il fumo, che sono ostentati a differenza di tutto quello che si vede oggi in televisione al cinema, ha fatto sì che comunque designer, la moda, anche insomma, chi ha voluto anche il mondo della pubblicità, ha creato una nuova tendenza e quindi un ritorno d'immagine superiore, quindi si è parlato tutti di Mad Men a differenza del numero degli spettatori, che di fatto è esiguo se pensiamo a altre serie. Quindi diciamo un po' ha imposto un ritorno al passato anche nel contorno, quindi non soltanto nel circuito TV ma proprio nel modo di vestire, di pensare, anche di scrivere una pubblicità o di vedere le cose. Questo è interessante che un telefilm riesca in qualche modo a imporsi. E ne parliamo, continuiamo a parlare tra pochissimo, anche perché c'è un'altra realtà che è Panam, sempre con Mattia Nicoletti, dopo gli aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. Mani? Mi scusi, può aiutarmi? Splendida fotografia. Grazie. Avrei un problema. Oltre 1 milione di copie vendute e il suo cappello era storto. Non ero in posa, stavo solo lasciando l'edificio. Indossa un corsetto? Sì, signora. Oh. Era necessario. Un corsetto non deve essere in bella vista. Ed ha anche le calze smagliate. Sì. Lo so, potrebbe aiutarmi. Il mio volo parte fra meno di un'ora. Lei da quant'è che vola? Erano belle, erano brave, conoscevano tante lingue, erano affascinanti e molto molto invidiate. Sto parlando delle hostess della Panam, che poi è fallita per la verità, però in quegli anni, era il 1963, si parlava soltanto di questa grande compagnia aerea, tant'è vero che chi poteva permettersi i voli aerei su loro jet erano tutte persone assolutamente facoltose o molto popolari grazie al cinema, e da qui la parola jet set. Ecco, quando quindi noi diciamo il jet set intendiamo le persone che una volta potevano permettersi l'aereo. Mattia, scusa questa introduzione per parlare di Panam, questa serie americana che racconta proprio le vicissitudini di 4 hostess della Pan America, molto belle, con la loro divisa invidiatissima, e tra alti e bassi della loro vita privata, però, giusto? Assolutamente, cioè è una sorta di foglietton, se vogliamo, ad alta quota, realizzato benissimo, sempre su, in questo caso seguendo la tendenza di Mad Men, ambientato quindi negli anni 60, dove vediamo gli amori di queste hostess, ma anche il mondo di riferimento. Quindi si parla di Kennedy, si parla della Guerra Fredda, si parla di spie americane, spie russe, quindi è proprio una fotografia dell'epoca, diciamo che viene fatta grazie ai voli che queste hostess fanno e che vedono luoghi che molte altre persone non potevano vedere. In questo caso volo uguale sogno, quindi c'è una positività in questo mondo che spera nel futuro. Di fatto. Ecco, se avete visto fra l'altro il film Prova a prendermi con DiCaprio, c'è una scena in cui lui così fa finta di essere il comandante di un aereo e dietro di lui c'è il seguito di queste hostess invidiatissime, si vedono proprio i passeggeri degli aerei che le guardano molto affascinati, perché veramente pochi potevano permettersi quei voli. Com'è andata la serie? Non credo benissimo, almeno in Italia, ma non so come sia andata invece negli Stati Uniti, oppure è un abbaglio, mi sbaglio? Allora, in Italia è andata discretamente, Negli Stati Uniti invece, secondo me, l'ABC si sperava molto di più, però non poteva pensare che seguire le, come dicevamo prima, la scia di Mad Men, che non ha una grande audience, potesse portarlo in questo caso. Per cui è partita molto bene, o almeno discretamente bene, e nelle ultime puntate si è assestata su 6 milioni di spettatori, che in questo caso, parlando dell'ABC, che quindi è visibile a tutti, non è un gran risultato. Per cui sono lì se decidere se rinnovarla oppure cancellarla. Ti auguri che rimanga. Credo, tra l'altro, ha una fotografia straordinaria e una scrittura del testo eccellente. Assolutamente, secondo me è una grande serie, magari non un capolavoro, ma veramente una grande serie, per cui sarebbe veramente un peccato, perché si ritornerebbe ancora di nuovo al discorso dei medici, avvocati e poliziotti. Che però insomma ci piacciono in qualche modo, perché sono sempre storie che ci incuriosiscono. Io da CSI non riesco a staccarmi, in particolare dal Miami. Vedremo un po', la nuova serie non l'ho ancora vista. Senti, per chiudere, volevo chiederti, Mattia, quali sono le nuove serie, se ce ne sono, che si rifanno ancora una volta a quegli anni? Lasciamo perdere Il Ritorno di Happy Days, che se lo vediamo oggi ci viene una tristezza, perché è di una lentezza inguardabile, perché una battuta arriva ogni 4 minuti, se non 5. Invece, insomma, la scrittura è anche molto cambiata. Resistono solo i Jefferson, forse, come scrittura molto veloce degli anni 70, che ancora oggi può reggere. Ma cosa anche vedremo? Mesh, forse, anche Mesh resiste a oggi, è vero. Al tempo. È vero. Ma cosa vedremo invece nel futuro che così ritorna al passato? Ma guarda, avremmo dovuto vedere The Playboy Club, ma è stata cancellata dopo la seconda, appunto, del secondo episodio per risultati disastrosi, che parlava di fatto della nascita di Playboy. Però diciamo che la tendenza viene ripresa in modo un po' diverso. Ad esempio Alcatraz di J.J. Abrams, che parla di questi detenuti che scompaiono nel 63, quando poi viene chiusa il famoso carcere, che ritornano oggi nel presente, quindi ci sono i flashback nel passato. Oppure abbiamo ad esempio The Hour, che in Italia non conosciamo ancora, che è un prodotto BBC che parla appunto nel periodo del fine anni 50, quando nasce questo programma di news della BBC, e quindi parla di giornalisti. Oppure ancora forse un'altra operazione di vintage, anche se non proprio come Panam, è Smash, che è un musical prodotto da Spielberg fra gli altri, in cui, cioè, più che un musical, parla di un musical, di una nascita di un musical dedicato a Marilyn, quindi si ritorna a Marilyn ancora a quegli anni. Diciamo che non è più un'operazione totalmente vintage, ma solo in parte. Vabbè, ma sicuramente lo è, però anche nell'ambientazione, voglio dire, nel ritorno a un personaggio che così ha caratterizzato il cinema di quegli anni e anche le fantasie di molti di noi. Mattia, ti ringrazio molto. Se volete seguire il suo blog, andate su blogleyweb.it e cercate MOOB, M-O-O-B, perché è appunto il titolo del blog. La TV è una cosa seria. Grazie Mattia, grazie, buona domenica. Buona domenica. Ciao, grazie. Volevo leggere qualcuno dei vostri tanti SMS, vi ricordo ancora il numero 349-238-6666. Scrive Matteo: sono in ufficio, sulla mia scrivania una vecchia cucitrice Zenith degli anni 70, tutta in metallo, anche questo è vintage. È vero, tra l'altro le cucitrici Zenith sono rimaste così da sempre, cioè non ho mai cambiato niente, anche i colori riprendono un po' quelli, forse una volta ce n'erano di meno, però in linea di massima questo è. Qualcuno invece propone come parola vintage al posto di cazzillo, che si usava assolutamente per indicare un oggetto, passami quel cazzillo perché non sai come si chiama, anche cazzullo invece per definire un uomo politico discutibile o incapace. Addirittura il messaggio, chi ha scritto il messaggio che non si firma, aggiunge: scommetto nella sua diffusione. Vedremo, chiederemo poi alla nostra Francesca Dragotto se potrà essere così. E ancora c'è Fabio che si pone una domanda, dice: ma i vecchi oggetti contestualizzati ai giorni d'oggi, per esempio il giradischi che legge gli MP3, oppure il frigorifero la Smex, se non mi sbaglio, che riprende quello degli anni 50, proprio la sua forma, chiaramente con la tecnologia di oggi, sono da considerarsi vintage o no? Una risposta un po' ce l'ha data la nostra ospite di prima, Gloria Spaini, dicendo di no, fondamentalmente sono delle rivisitazioni. Però di questo parleremo, perché avremo un ospite che ci racconterà di come la tecnologia sta prendendo dal passato. Ahimè, proprio riguardo a questo ho una notizia un po' triste, a me fa tristezza, perché dopo 131 anni di attività la Kodak ha gettato la spugna. Insomma, dal boom che ha avuto è accaduto che il digitale ha avuto la meglio e purtroppo Kodak naviga in cattivissime acque, e questo ci dispiace perché la parola Kodak ci rimanda davvero al mondo della fotografia. Però del resto Polaroid, che anche lei stava per fallire, ha provato a rimettersi in gioco con delle novità. Non so quanto stia andando bene, però insomma ci dispiace quando una grande azienda non è più così grande. Il riposo del guerriero. Le 11:06 minuti, ancora buona domenica da Stefano Gallarini, continua il riposo del guerriero. Oggi la puntata si intitola Ritorno al Vintage, perché di questo stiamo parlando, un vintage davvero che ritorna in tutto. Abbiamo visto la moda, il telefilm, abbiamo parlato di quello che accade anche nelle nostre case. Daniela scrive su Facebook: io ho degli anni 70, una Valentine Olivetti, so che è in un museo a New York, sarà al MoMA, e la mia è in perfetto stato, anche se mi offrissero tanti soldi non la vendo. Io ho la lettera 32 che non venderei mai, assolutamente. Mi fa anche sorridere il messaggio di Gianluca di Bergamo, ha 49 anni e scrive: le ragazze talvolta dicono sei carino ma vecchio, e io rispondo no, sono vintage. Ha ragione, è vero, quindi anch'io sono vintage, se volete 64, questa è la mia annata, che è un'ottima annata tra l'altro per il Barolo, per cui ecco, se tanto mi dà tanto è sempre un ritorno a questa parola. Vi ricordo il numero per giocare alle 11:30, lo faccio subito, sennò poi mi dimentico, mi scuso con l'ospite. 800 24 00 24. Mario Sesti, buona domenica. Mario Sarti, perdonami, Sesti, ho ragione, infatti non avevo sbagliato, ma in realtà avrò un altro ospite che ha questo cognome simile al suo, direttore artistico della sezione Extra, l'altro cinema del Festival del Film di Roma. Perché anche al cinema si torna al passato con diverse pellicole che addirittura riprendono il bianco e nero, se non il muto, se non mi sbaglio. Diciamo che questa è stata un'annata un po' particolare per rappresentare questo sentimento, quindi sicuramente The Artist, che però è un'operazione secondo me un pochino più raffinata dell'idea di vintage che state esplorando questa mattina, nel senso che lì è come se qualcuno iniziasse a scrivere un poema nella lingua di Ariosto o di Dante. La perfezione archeologica della riproduzione del grande cinema muto di Chaplin, di Murnau e di Lubitsch è così impressionante che è qualcosa di un pochino più, diciamo, radicale sul piano del linguaggio, così, dello stile di queste operazioni. Mentre poi probabilmente assolutamente vintage è l'operazione di Scorsese con Hugo Cabret, che rievoca i fasti dell'inizio del cinema, di Méliès, eccetera, eccetera. Io ci metterei anche forse ancora più vintage nella serie della linea 30, della lettera 32, anche La Talpa, sì, dove c'è una ricostruzione così fedele della scenografia degli anni 70, di oggetti, luci, montature di occhiali, taglio dei capelli, costumi. Ecco, lì secondo me, io ho sentito il discorso che facevate prima con Mattia, lì sì, siamo proprio, probabilmente lì il vintage si carica anche di un contenuto storico, ideologico, di un desiderio inconscio, no? L'idea di ritornare in un'epoca in cui tutto sembrava più possibile, no? Gli anni 60-70, in cui sembrava che il mondo fosse avviato verso un progresso indefinito, in cui c'era certo l'incubo della guerra fredda, ma in cui c'era il futuro, ecco, probabilmente. Lì si c'era, forse si annida, mi sembra che il cinema riesca a sollevare qualcosa di più profondo del semplice piacere delle cose scomparse, che in fondo è anche il discorso che fa Woody Allen in Midnight in Paris, no? Il passato è sempre più bello, per il fatto stesso di non esserci più, fondamentalmente, di essere perduto. E quindi c'è anche forse una piccola, cioè il modo in cui ci circondiamo di questi oggetti è anche un modo per elaborare il lutto di qualcosa che sappiamo che non ritornerà più. E da questo punto di vista forse il cinema è lo strumento più adatto. Non a caso un grande scrittore francese, drammaturgo come Jean Cocteau, diceva è una frase che poi è stata ripresa come un mantra da tutti i grandi autori, lo dice spesso Bertolucci: il cinema è la morte al lavoro. Per il fatto stesso di prendere una cosa, di catturarne il tempo, il movimento, cioè anche, voglio dire, anche il più brutto dei nostri filmini familiari, no? Anche il più dilettantesco, no? Credo che è un'emozione che abbiamo vissuto tutti, per il semplice fatto di riproporci noi stessi come eravamo, oppure addirittura le persone scomparse, o le case che abbiamo abitato, o i bambini prima che diventassero grandi, no? Ci provoca un'emozione fortissima, è qualcosa di più di una fotografia, è qualcosa di più di un ricordo, perché conserva il movimento, l'illusione della realtà. Ecco, io credo che da questo punto di vista il cinema sia sempre stata una delle cose più vintage che esistono. Perché è passato nel momento stesso in cui viene prodotto, cioè questo è il suo senso. E in, credo di sì. Del resto Oscar Wilde diceva che il fascino del passato è che è passato, appunto, esatto. è lì. E Mario, mi viene da pensare una cosa, tu hai citato i filmini familiari, i Super 8, gli 8 mm ancora prima, no? C'è qualcosa di più vintage. No, però mi viene in mente una cosa, vedi, le pellicole duravano 3 minuti, se non mi sbaglio, non vorrei dire una però mi sembra 3 minuti, giusto? Sì, lo chassis era più o meno 3 minuti e mezzo. Ecco, e come, e sai, come la pellicola 12, 24, ma 36 pose, proprio quando ti andava bene avevi tanti soldi da spendere. E questo implicava il fatto di riprendere esclusivamente dei momenti davvero particolari. E anche se tu non montavi, quindi una pellicola di 3 minuti, anche se non è montata, 3 minuti te li puoi anche guardare, giusto? Certo. E invece mi viene in mente oggi, con il fatto che abbiamo infiniti minuti da riprendere, perché tra telefonini e tecnologia abbiamo quanto spazio vogliamo, il problema è che se non fai il montaggio diventa una noia terribile, per cui ecco, io vorrei che si tornasse anche al gusto del poco, cioè il gusto non tanto perché ho spazio faccio, ma faccio perché penso di catturare un'immagine, di catturare una situazione. Io vorrei che si tornasse anche a questo. Il cinema già lo fa, ovviamente. Questa sensazione, ecco, che tu dici sia larghissimamente condivisa. Sai qual è la vera scommessa? Sì. Di capire, cioè, che no, esista anche un vintage del digitale, perché come dici tu, questa generazione che è cresciuta quando c'è una risorsa incondizionata per poter riprendere tutto, no? Anche le fotografie, voglio dire, no? Insomma, probabilmente questa è stata la generazione più ripresa, più filmata in digitale, no? di tutta la storia del mondo. Bisognerà capire se questa generazione, riguardando questa roba in digitale sul proprio computer, con la propria HD, proverà la stessa sensazione che proviamo noi quando vediamo il Super 8 o l'8 mm con la sua grana molto vintage, no? Perché il vintage poi deve avere anche una caratteristica particolare, deve avere una forma che in qualche maniera connoti la sua appartenenza a un'epoca diversa, no? Assolutamente, infatti c'è il plugin elettronico che permette di ottenere quell'effetto anche su una ripresa fatta adesso. L'effetto vintage, cioè l'effetto di una cosa molto vintage, per esempio, è successo negli anni 70 con le architetture fasciste di Latina, che è una cittadina che sta vicino a Roma e che ha una connotazione architettonica, no? A un certo punto tutti gli intellettuali, soprattutto di sinistra, Moravia, Pasolini, eccetera, hanno fatto di Latina un posto dove hanno comprato case, passavano il weekend, eccetera, perché è quello l'effetto vintage. Le cose scomparse, per il fatto di non esserci più, per il fatto anche di trasmetterci una loro utopia che poi inevitabilmente si è spenta come tutte le cose, acquistano una grazia e sollevano in noi una pietà molto particolare, proprio il fatto delle cose che è tipico delle cose che non ci sono più. Da questo punto di vista, come dicevi anche tu, secondo me il cinema ha un privilegio in più, ha un vantaggio in più, l'idea di comunque che c'è quell'illusione di vita, del movimento e del tempo che hai catturato in maniera accidentale, eccetera, che non si ripeterà mai più nella vita di nessun'altra persona, in nessun'altra storia generale del mondo, che provoca questo effetto che ci colpisce direttamente al cuore. È proprio così. E allora a questo punto i 4 film che hai citato direi che sono 4 film da non perdere assolutamente, credo tutti, no? Ecco. The Artist, Hugo Cabret, La Talpa e Midnight in Paris di Woody Allen. Grazie Mario, ci sentiremo molto presto e insomma poi siccome ti occupi anche del Festival del Film di Roma, ovviamente la tua zampa, la tua mano la vedremo per forza. Grazie, grazie, ciao. A voi. Il riposo del guerriero. Mi è arrivato un messaggio, io non ho capito se è vero o non ho presente. Il messaggio dice: ho un giradischi per auto, ma mi sembra che non... Ah no, sì, certo, come no. Quando c'erano i mangiadischi, c'erano anche i mangiadischi per auto, è vero. Sergio Pernacchini, ciao, buona domenica. Ciao, buongiorno a tutti. Sergio è appena tornato da Las Vegas perché ha partecipato al CES 2012, che è la Fiera Mondiale dell'Elettronica, e là credo che tu abbia visto molta tecnologia, però rivolta al passato. Assolutamente, beh, è una moda che ormai è nata già da qualche anno, un po' come è successo nel mondo dell'auto e come succede nel mondo della moda da tantissimo tempo. Il vintage, questo termine che poi nasce dall'industria dei vini. Sì, abbiamo detto infatti all'inizio puntata, abbiamo spiegato un po' come... Per parlare, il dannato è diventato in realtà una moda tecnologica molto molto forte. Basti pensare che una delle cose che mi ha più colpito, sì, una grande azienda come Samsung, che ha presentato un sistema serio, side dock, quelli per iPhone, iPad e per i loro telefonini, a valvole, quindi utilizzando un sistema, una tecnologia che in realtà è propria degli stereo degli anni 60 e 70. Ma chiunque ti dice che la pulizia del suono dato dalle valvole è assolutamente straordinaria, molto di più che quella data... In generale questo è vero, per gli audiofili valvole è ancora il sistema più... performante, perché è quello che dà il suono più piatto, quindi non modifica il suono e ti restituisce il suono puro, quindi questo ovviamente oggi dipende tantissimo dalla qualità di quello che noi... della componentistica, certo, che fa cambiare, esatto, tutto. Ma anche visto che oggi siamo nell'era degli MP3, dei file portatili, non c'è più la musica quella su supporto, ma c'è questa musica digitale, dipende molto da com'è quel file, claro. Cioè, se è meno compresso. E poi dallo strumento che hai per riprodurlo, appunto. Quindi, insomma, quindi torniamo addirittura alle valvole. Meglio, perché chi ha ancora degli apparecchi a valvole farà meno fatica a trovarle quando si consumano. E... sì, ma quello che mi ha incuriosito è che una grande azienda si è buttata in questo settore vintage, così in realtà di nicchia, cioè che molti ritengono di nicchia, ma se lo fa una grande azienda vuol dire che i numeri ci sono. Tant'è vero che quest'anno, in un'industria musicale che è sempre più in crisi, la vendita dei dischi in vinile è aumentata del 50-55%. Parliamo di numeri ovviamente sempre bassi, certo, contenuti. I numeri sono bassi ovviamente, però c'è un interesse, questo è, quindi non muore, almeno non muore l'oggetto in sé. No, non muore, ma anzi viene. La filosofia vintage è diventata quasi una filosofia di design, per cui non è tanto il prodotto che conta, ma il fatto che io te lo presento con un look vintage. In questi giorni, purtroppo, abbiamo letto, credo tutti quanti, dell'istanza di fallimento della Kodak, che è un'azienda che era mitica negli anni 70, ma subito nel dopoguerra. Ne abbiamo parlato poco fa. E in realtà, infatti, volevo riprendere quello spunto per dirvi che poi ci sono altre società che hanno affrontato lo stesso problema. Pensiamo a Fujifilm, che è questa azienda giapponese che era la grande rivale di Kodak nella produzione di pellicole e di macchine fotografiche, che ha saputo rinnovarsi creando per prima, è stata la prima in realtà, una linea di camere digitali con un look vintage, per cui c'erano i comandi a ghiera, la camera molto squadrata, rivestita in pelle, e questo è successo un paio di anni fa, ha avuto un grandissimo successo, ha rilanciato l'azienda e adesso anche gli altri grandi colossi tutti quanti hanno nel loro catalogo un prodotto dal look retro. Quindi diciamo che è diventata un po' una forma di comunicazione proprio di design del prodotto, al di là di quelle che sono poi le caratteristiche di quello che fa, di certo, quello che non fa. Ma credo che sia la contrapposizione proprio fra appunto un design che rimanda al retro, come dicevi tu, e la tecnologia. Beh, la tecnologia soffre sempre a volte di freddezza, no? Non è sempre stato così. Poi insomma Steve Jobs con i suoi prodotti ci ha fatto capire che la tecnologia può essere anche proprio bella e quindi assolutamente non fredda. Però insomma questa freddezza un po' resta, no? Per moltissimi oggetti. Quindi il fatto di rivestirli in qualche modo. Il problema, questo questo è un discorso molto interessante che ho avuto la fortuna di affrontare con un designer della Sony che parlava proprio tra l'altro di Apple e di John Ivy, che è il designer di tutti i prodotti sì. Apple che noi adesso oggi utilizziamo, ed è la diversa di filosofia. Secondo lui la forza di Apple è stata quella che per loro disegnare un prodotto è innanzitutto semplicità, deve trasmettere semplicità. Invece il design tecnologico degli anni 90-2000 voleva trasmettere la complessità delle funzioni che tu potevi eseguire con quell'apparecchio. Quindi questo portava a dei design sempre più complessi, ricchi di bottoni, tanti LED, indicazioni, schermi, eccetera. Il bello era proprio lì, dici guarda com'è complesso. Esatto, guarda quante cose ci puoi fare. Certo. Quindi in realtà poi il vintage fa il contrario, cioè ti riporta a un design prodotto più semplice quando in realtà non c'erano tutte queste funzioni, e di conseguenza probabilmente funziona per gli stessi motivi per cui funzionano i prodotti Apple, cioè la semplicità e la bellezza. Bene, con questo è vero, concordo, e con questo discorso abbiamo quindi detto che in fondo l'iPhone è un prodotto vintage, in qualche modo lo è. In un certo senso sì. Va bene, questo ci fa piacere questo ritorno al passato. Io ho tante di quelle cose che sono veramente vintage che a questo punto ritirerò fuori e probabilmente metterò in vendita su internet, chissà. Quanto valgono, infatti ci devo assolutamente provare dalle mie console da videogiochi originali alle slot machine. Sui videogiochi possiamo aprire un discorso. Lo faremo una prossima volta perché adesso non abbiamo il tempo, ma ti prometto che figurati, parli con me, lo facciamo, anche perché tra pochissimo parliamo di videogiochi. Grazie Sergio Pennacchini, buona domenica, ciao. A voi, grazie, lo facciamo subito tornando proprio al passato, perché ci sono anche videogiochi che in qualche modo ci fanno rivivere gli anni 60, come per esempio Grease Dance. Video game. Visto che oggi abbiamo parlato di ritorno al passato, è il momento di recuperare i nostri abiti vintage e metterci a ballare e a cantare a ritmo di rock and roll. Vi parlo di Grease Dance. Grease ritorna dopo il grande successo riscontrato su Nintendo Wii, questa volta in una versione appositamente studiata per Xbox 360 e PlayStation 3, con pieno supporto rispettivamente a Kinect e a Move. In questo gioco principalmente potrete scegliere fra la modalità ballo e quella karaoke. In quella ballo dovrete semplicemente seguire i movimenti dell'istruttore. Più sarete in sincrono con i movimenti dell'istruttore e più punti otterrete. In quella karaoke invece dovrete semplicemente cantare, seguirete sul monitor la linea melodica e a questo punto più canterete bene e più punti otterrete. Sia in modalità ballo sia in quella karaoke potrete giocare insieme ai vostri amici, sia singolarmente sia a squadre, e potrete scegliere fra la modalità competitiva oppure quella cooperativa. Grease Dance è un titolo quindi divertente da giocare in compagnia e anche utile per chi vuole prepararsi a diventare attore di musical, visto che avrete anche l'opportunità di ballare e cantare contemporaneamente. Se siete poi dei fan della musica anni 50 e 60, il titolo è ancora più interessante, visto che oltre alle canzoni del musical Grease ci sono anche molti successi di quegli anni da cantare e da ballare. Formaggio Montasio, il formaggio DOP a 4 stagionature. Vi presenta il gastronauta. Caro Davide Paolini, nessuno dei nostri ascoltatori vorrebbe buttare via la vecchia cucitrice Zeni, la macchina per scrivere, la calcolatrice degli anni 70, i timbri, tutte le cose di quegli anni. Tu, invece? Io lo stesso, perché io ho una lettera 22 Olivetti dove ho iniziato a scrivere a macchina. Guai a buttarlo, a venderla, certo. Ho il primo cellulare, 1990, quei 1000 che furono dati ai giornalisti durante i mondiali di calcio, e ho il primo computer dell'inizio anni 80, il primo Apple. quindi come vedi anch'io e guai, a liberartene. Ma sai che io nella macchina per scrivere ho anche la carta carbone, cioè e io la carta, quando intanto io dico avevamo la carta carbone, io penso che oggi nessuno sappia cos'è la carta carbone. È vero, ma magari tra tante le cianfrasuglie che c'ho, probabilmente c'è anche un pacco di carta carbone che si usava, perché sennò dovevi riscrivere tutto da capo, era un disastro. Beh, verrebbe da dire che bei tempi. Senti, vintage parte da vendemmia, quindi bisogna parlare di vini oggi per forza. Sì, perché vintage è derivato nel mondo, diciamo, nell'uso comune proprio da un discorso francese di champagne, perché è importantissimo il vintage dello champagne, anche dei grandi vini, dei grandi cru francesi, però è vero, parte di lì e oggi viene usato comunemente. Ma sai, il vintage però oggi lo vediamo come qualcosa di molto arretrato. In realtà vintage vuol dire in Francia anche la vendemmia dell'anno precedente o di 2 anni precedenti o di 3 anni precedenti, quando il vino è già maturo da essere messo sul mercato, perché nell'uso comune si pensa 10, 20, 30 anni fa, invece sul vino è un fatto abbastanza, come, non proprio corrente dell'annata, perché non è l'annata, però anche dell'anno prima vintage è già stampigliato sulla bottiglia. E quindi ci sono delle annate che sono strepitose, che sono valutate più delle altre, e il vintage è fondamentale, anche perché nel caso del vino, cioè la vendemmia è il risultato di tante cose, il risultato del tempo, del terreno, di come è stato coltivato, quindi è una serie di elementi che contribuiscono a questo risultato finale, e si trovano tutte le graduatorie anche dei vini italiani, nate 2, 3, 4, 5 stelle. Ecco, c'è un po' un ritorno secondo te alle vecchie etichette del passato? Sì, sul vino c'è. Sul vino c'è questa tendenza di tornare al classico, di tornare a vecchie bottiglie, a riprendere vecchie bottiglie e riproporle magari leggermente cambiate, e lì c'è la stonatura. Perché tu o le riproponi o non le riproponi. Cercare di mascherarle secondo me non è molto giusto, mentre il grande ritorno secondo me c'è in cucina. In cucina sicuramente c'è un ritorno al passato, ovviamente oggi ci sono altre tecnologie, c'è un altro modo di presentare i piatti, però si sta tornando indietro perché sicuramente, diciamo, questa situazione economica fa sì che si torni anche a una cucina molto più semplice, poi di cui ne abbiamo già parlato, a una cucina sicuramente meno costosa, e soprattutto c'è questa tendenza al recupero. Io non so se questa tendenza al recupero è modaiola oppure proprio voluto dalla necessità, qui secondo me c'è ho un po' di dubbi, però sicuramente il riciclo, nel senso di quando sotto Natale poi è un grande parlare di riciclo del panettone, riciclo del pollo, riciclo del tacchino, non lo so se questo è, così come posso dire, un modo per farsi notare e per discorrere più che un'esigenza, però sicuramente un ritorno al passato c'è di sicuro. Senti, scusa, anche sul vino c'è un ritorno al passato, perché diciamo questi vini rotondi, perfetti, dove il difetto non esiste, barricati, quelli che io ho chiamato con una grande definizione che rimane nella storia, mi autocelebro, ma è così, vini dei falegnami, stanno passando, si sta tornando un po' indietro a vini imperfetti, si sta tornando a quelli che io chiamo i vini ignoranti, e sicuramente anche qui c'è un ritorno al passato. Ecco, a proposito di vini, un nostro ascoltatore proprio all'inizio della puntata aveva scritto che in Friuli c'è un vino che si chiama Vintage, rosso intenso di vitigno antico, così scrive. Tu l'hai assaggiato, lo conosci o non lo conosci? Beh, Vintage potrebbe essere semplicemente un nome dell'etichetta. Sì, immagino di sì, certo. Non è un vitigno che si chiama Vintage. No, immagino che si riferisca proprio a un'etichetta, è chiaro. È un nome di fantasia, sì, no, sinceramente non lo so. Era semplicemente una curiosità. Però potrà dire, vedi. Certo. Potrà dire una cosa di questo genere, perché se mettono Vintage, poi sono obbligati per legge a mettere la data, l'anno, se li mette Vintage 2012, Ho vinto il 2011, insomma, è un vintage del piffero. Diciamo. Ecco, il 2012 proprio è da non bere, direi di evitarlo completamente. Direi proprio che c'è qualcosa che non torna. Assolutamente. Grazie Davide, ci sentiamo domenica prossima. Buona domenica. Ciao, e questa domenica sarà già vintage, quindi. Ah beh, assolutamente, certo. Il riposo del guerriero. Sono 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it adesso. Un mistero in 24 minuti. Beh, certo, dovete risolvere il mistero, che come al solito può essere una delle notizie della settimana, oppure un personaggio o qualcosa di molto conosciuto. Il numero verde per prenotarsi 800 24 00 24, e più indizi ascolterete e più il premio si abbasserà. E il primo indizio, eccolo qui. Quante squallide figure che attraversano il paese, come misera la vita negli abusi di potere. Sul ponte spento la bandiera bianca, sul ponte spento la bandiera bianca. Eccolo qua il primo indizio di oggi, 800 24 00 24. Federico da Lucca, buona giornata. Ciao Stefano. Ciao Federico. Allora, abbiamo 1000 euro, dimmi tutto. 1000 euro, tentiamo il colpaccio. Tentiamo il colpaccio, vai là con la tua risposta. E allora un personaggio Beyoncé. Perché? Ma perché c'è stata una polemica questa settimana che ha visto la pubblicazione di sue foto, che la vedono un po' troppo sbiancata rispetto al colore. un po' troppo elaborata. Michael Jackson protagonista. Ormai, grazie agli strumenti di fotoritocco, diciamo che tutti possiamo essere quello che non siamo. In effetti non è neanche riconosciuta. Grazie Federico, ciao, buona giornata, ciao. Buona domenica. E la risposta potrebbe essere quella giusta, ma lo si scoprirà solo al 24esimo minuto. Sara, dalla provincia di Parma, buongiorno. Buongiorno, ciao. Ciao Sara, cosa vogliamo fare? Qui abbiamo ancora 1000 euro sul mio tavolo. No, io voglio ascoltare un indizio. Ecco, scendiamo a 500 euro. Eccolo qui, secondo indizio, scusatemi, sarò noioso, sarò vintage, dite quello che volete, Sara, di quello che vuoi, ma io questo pezzo lo sto ascoltando in cuffia, ovviamente, e devo dire che il suono degli strumenti vero è un'altra cosa, non c'è niente da fare rispetto ai campionamenti dell'elettronica, il suono degli strumenti vero è straordinario, ed è la forza anche di questa traccia, sicuramente vintage, direi. Era Street Life e la voce inconfondibile, quella di Randy Crawford. Allora, Sara, questo era il secondo indizio. Siamo a 500 allora, euro. Senti, io dico questo. È uno studio che è stato pubblicato su riguardo degli occhiali che con le lenti, diciamo, blu, praticamente ti proteggono dalla luce artificiale, dalla fotofobia, dall'emicrania e tutto questo. E quindi da tutto quello che sono i piccoli, diciamo, fastidi che la luce può provocare. Esatto. Agli occhi, giusto. Tra l'altro questo tipo di occhiali c'è sempre stato, però adesso lo studio ha confermato l'utilità. Grazie Sara, buona. Prego. Domenica. Grazie, ciao. Ciao Monica da Pisa, buona giornata. Buona giornata anche a voi. Ciao Monica, abbiamo 500 euro, abbiamo dimezzato il premio, tu cosa fai? Allora, guarda, la mia ipotesi è che siano i taxi, i tassisti con le loro proteste. Grazie Monica, buona giornata. Grazie a voi, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. E Graziella da Alessandria. Ciao, ciao. Ciao Graziella, buongiorno. Ciao, buongiorno. Cosa vogliamo fare qui? Io tento. Anche tu. Abbiamo 500 euro, ora aspetta che riascoltiamo i due indizi. Allora, il primo era Bandiera Bianca di Franco Battiato, il secondo Street Life Randy Crawford. Gabriella, Graziella, scusami. Si confondono in molti. Secondo me è Mohamed Ali il compleanno, che compie 70 anni. Grazie, ciao, buona domenica. Ciao. Carlo da Perugia. Buongiorno. Ciao Carlo, aspetta che ricordo un numero, 800240024. Abbiamo due indizi, ma puoi anche ascoltarne un altro se vuoi, però il premio scenderebbe a 300 euro. Sento il colpaccio. Senti il colpaccio anche tu, col colpaccino, sì. Diciamo, perché ormai il colpaccio era di 1000 euro e quindi li abbiamo già perduti, però siamo a 500. Vai Carlo. Mi sembra spuntato che probabilmente sbaglio, il capitano Schettino. E perché devi sbagliare, scusami? Non so, sentendo le analisi delle funate precedenti. Sì, tu dici, i due indizi ci stanno, potrebbe anche essere. Sì, perché sembra molto. Carlo, lo scopriremo al 24° minuto. Ciao, buona domenica. Altrettanto. Rosa Maria, da Genova. Buongiorno a tutti. Ciao Rosa Maria, buongiorno a te. Allora, io il movimento dei forconi che abbraccio a Sicilia. E siamo a Genova, ce ne sono tanti che vi stanno seguendo. Chissà cosa accadrà, adesso sono fermati, però hanno detto che appunto la bandiera bianca, però eseguiranno una sorta di monitoraggio verso le scelte dello Stato, vediamo cosa accadrà. Grazie Rosa Maria, prego, buona domenica. Un mistero in 24 minuti. Volevo intanto ringraziare Tina che mi ha strappato una bella risata, un bel sorriso direi, più che risata. Grazie Tina, davvero, non vi leggo il messaggio, però insomma è una cosa molto carina e lei si definisce una vintage verace perché ha una sessantina d'anni, ma lo sono anch'io, è sicuramente un po' vintage, indubbiamente lo sono. Allora, poi qualcuno ancora rispetto all'argomento del riposo del Guerriero di oggi scrive addirittura dove può trovare degli acquirenti per degli oggetti di appunto di un po' di anni fa, e sicuramente ci sono le aste online, un sito re in questo senso è eBay, ma poi ce ne sono degli altri per proporlo e farsi fare anche un'offerta. Alessandro da Milano, torniamo al nostro mistero in 24 minuti. Alessandro, buona domenica. Buona domenica, buongiorno. Ciao Alessandro, siamo a 500 euro, abbiamo ancora tanti indizi, cosa vuoi fare? Ma no, provo su 500 euro. Anche tu, vai. Sì. Ma secondo me è il naufragio di Costa Concordia, nel senso che la bandiera bianca è quella che sventola quando ci si arrende, e se sventola su un ponte è il ponte di una nave. Quindi immagino che possa essere il naufragio di Costa Concordia. Grazie Alessandro, buona domenica. Grazie mille, ciao. Ciao, Daniela da Genova. Pronto? Ciao Daniela, tocca a te. Ciao. Eccoci, cosa vogliamo fare qui? Siamo ancora fermi a 500 euro e nessuno si schioda da lì oggi. Sì, volevo chiederti una cosa. Se dico Schettino che l'ha già detto un altro, quindi non vale allora, più. Esatto, nel senso che se lo dice fosse giusto non vinceresti niente, quindi non okay, dirlo. Ok, ma se invece dico la situazione, cioè il disastro della Costa Concordia. L'ha appena detto, in fondo l'ha appena detto Alessandro dicendo la Costa Concordia, quindi con quello che è successo. Perfetto, e quindi non... Non saprei proprio. E quindi vogliamo passare a un terzo indizio? Proviamo il terzo indizio. Eccolo qui, scendiamo a 300 euro. Mancano 5 minuti alla soluzione del mistero. Mancano meno, per la verità, ma non vogliamo tagliare questa bella traccia degli Wham di Freedom. Quante volte l'hai ballata, Daniela, questa canzone? Mai. Come mai? Hai 19 mai. Anni, hai, ecco, questo è. Quanti anni hai, Daniela? 50, quindi non l'ho mai ballata. Vabbè, però, insomma, uno può andare a ballare anche a 30 anni, non è che solo a 19. No, ma non l'ho ballata. Niente, però l'ascoltavi sicuramente, questo sì. Okay. È stato un grandissimo successo. Allora, Daniela, questo era Freedom degli Wham, dove cantava George Michael. Faccio così, che dico le manifestazioni in piazza in Egitto, anche se non mi convince niente, però mi hanno preso tutte le risposte che avevo pensato. Brava Daniela, cioè nel senso che è una bella risposta, grazie, ciao, buona domenica. Ciao, grazie. Niente posso dire, Emanuele da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Ciao Emanuele. Allora, io non ne ho la più pallida idea, quindi butto giù una notizia. Allora, che aspetta, però puoi sempre ascoltare un altro indizio se vuoi, Ah sì, va, allora sì. Ecco, perché? Allora scendiamo a 200 euro. Di dormire, di sognare, che questo fiume lentamente mi porta tra i monti e le pianure, e mi culla come un bambino fino al mare. Eccoci qui, allora questo era il quarto indizio, Emanuele, un bellissimo successo di Fabio Concato, si intitola Guido Piano. Ti ho lasciato tempo per pensare, Emanuele, sì. So che il tuo cervello allora stava lavorando, lo vedevo. Le notizie più importanti le hanno dette, beh io dico l'area C di Milano, l'entrata in vigore dell'area C di Milano, insomma. Sei contento, tu che sei di Milano? Io sì. Ok. Anzi, no, beh, così sarebbe, io sono più estremista, ecco, proprio mi piacerebbe una Milano senza auto. Proprio. Vabbè, sì, certo, deve funzionare tutto il resto, che voglio con dire, funziona, ma ancora con più i mezzi pubblici. Io mi sono appena iscritto al car sharing, per cui vedi, questo è un buon modo sicuramente per affrontare questo momento. Grazie Emanuele, grazie. Ciao, buona giornata. Rocco da Genova. Pronto, buongiorno, ciao Stefano. Oggi veramente tanti genovesi. Allora, ecco, è finito anche il tempo. Cosa facciamo? Rocco, sai cosa ti dico? Dimmi. Che io ti faccio risparmiare la telefonata. È come se tu non avessi mai chiamato. Io non ti ho mai sentito, noi non ci siamo mai conosciuti. Così almeno la prossima settimana puoi tentare di partecipare. Sai perché, Rocco? Dimmi. Qualunque cosa tu abbia voluto rispondere, in realtà c'è qualcuno che ha già vinto, Rocco. Quindi non mi resta che dirti ciao, non ti ho mai conosciuto, ci sentiremo la prossima volta, spero settimana prossima. Ciao Rocco. Ciao, grazie. Presto, quindi ciao. Rocco non ha mai giocato, non abbiamo mai sentito, invece Monica sì, ciao Monica. Ciao, yuhu, bellissimo. Sei contenta? 500 euro per te, abbiamo cominciato bene l'anno, brava. Tanta roba. La risposta erano proprio queste, le agitazioni dei tassisti italiani a causa delle liberalizzazioni. Questo era Freedom, quindi libertà, il terzo indizio, Guido Piano perché si guida. Esatto, la bandiera bianca perché i taxi sono bianchi e Street Light perché loro lavorano sulle strade guidando. Grazie Monica, complimenti. Grazie a voi, ciao. Buona giornata, buona domenica anche a tutti voi, buona settimana da me ovviamente, da Gesù De Luca che è stato in redazione, l'assistenza di Stefania Tagliaferri, Paolo Corleoni in regia, tra pochissimo Alessio Maurizi con Si può fare. Buona settimana da Stefano Gallarini, a domenica prossima.